direzione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. Bene, fantasma. Lo sai chi è che dice 25 o'clock su la pre-sigla, insomma, l'annuncio della trasmissione? No, professore, non lo so. E beh, miracoli poi del campionamento e del lavoro con i file Wave, diciamo, al computer, è il sottoscritto. Incredibile. E sembra che c'ha un vocione da orco. Molti e molti anni fa, eh. Notevole, notevole. Eh sì, perché Radio Onda Rossa è una radio casereccia. No, mi nasce spontanea la domanda, che cioè no, la sigla è composta da tante parti, da tanti rumori. Sì, sì, quale dei rumori? No, no, è lo sciacquone, come l'hai registrato? Radio tra due anni lo diciamo. Sì, tra due anni ve lo riveliamo. Radio Casareccia, radio artigianale, Radio Onda Rossa. Forse la maniera migliore per descriverla è la radio autogestita, indipendente, autonoma di Roma, della capitale, dal 1977. Noi vi mettiamo la sigla, quella vera, sotto la nostra voce, che va come al solito al momento delle presentazioni. Eppure questa c'ha un senso, disconnection notice. Appunto, avviso di disconnessione, eh? Noi stiamo uscendo dal tempo reale e andiamo a rubare invece il tempo, quello che ci è stato sottratto dai ritmi del consumo e della produzione. Come si dice a Roma, ce lo andiamo fregando. Secondo per secondo. Allora, Radio Onda Rossa, per funzionare così come appunto radio, che ce la facciamo tutta da noi, ha bisogno però del vostro contributo, che anche voi contribuiate con le declinazioni, siamo proprio sotto la norma. In vario modo, a vario titolo, cioè grazie alle vostre corrispondenze, alla vostra partecipazione alla radio, con i vostri suggerimenti. Le vostre comunicazioni che ci mandate. E non da meno, con i vostri soldi. Oppure partecipando alle iniziative della radio. E Radio Onda Rossa vive così, appunto, da ...36 anni, e rotti. Dicevamo tante volte, una sorta di miracolo che ha attraversato tutta l'epoca del neoliberismo, indenne. Senza padroni, senza pubblicità, senza partiti o partitini politici. E grazie al vostro contributo, 61 80 40 01 è il numero del conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56 00 185, Roma. San Lollo. E

E dicevamo proprio fuori onda, questo disco del 1989, così appunto, un personaggio Lou Reed che della sua New York ha fatto un po' il centro proprio della, come si dice, come direbbero gli esperti, della sua poetica. E questa traccia si chiamava proprio Endless Cycle. This is no time for celebration. Quasi una sorta di premonizione, insomma, qualcosa che non finisce. E pensare che insieme a Dave Bowie, nell'epoca più o meno di questo disco, forse qualche anno prima, comunque a metà degli anni 80, riacchiapparono Iggy Pop per le orecchie. Sì, perché praticamente era completamente a ruota d'eroina e non riusciva più a uscirne fuori. E Iggy Pop ancora va in giro a suonare e sotterra tutti, c'ha veramente un cuoio estremamente duro. E invece il buon Lud, Lou Reed, ci ha lasciato qualche giorno fa. Un appuntamento e un disco, questo, che abbiamo mandato in lungo e in largo, e che comunque proprio in queste brutte occasioni poi capita di riascoltare, con il pretesto magari di mandarlo in trasmissione. Ed è un disco veramente figo. Dicevamo poc'anzi che ha una registrazione a dir poco eccellente, soprattutto per gli anni in cui parliamo, cioè 1989. Because the time is getting late. This is no time for... Una dinamica formidabile, uno dei primi lavori fatti con dei video dentro. Quando ancora, insomma, i computer erano, i personal computer non era roba che girava in tutte le case. This is no time to clear the plate. Let's not be sorry after the fact. Ma andiamo per ordine. Torniamo al 1967, Andy Warhol produce il disco con la banana. Eppure il banana, infatti, oggi, approfittando. This is no time to turn away and drink or smoke some vials of crack. Di queste coincidenze ha mandato per un po' di tempo, durante la rassegna stampa di questa mattina, un po' di cover di Lou Reed e The Velvet Underground. This is no time for inner searchings. The future is at hand. This is no time for phony rhetoric. This is no time for political speech. This is a time for action. Because the future's within reach. This is the time. This is the time. This is the time. Because there is no time. There is no time. There is no time. There is no time. There is no time. Eh sì, dai, vedi, ricordando poi Lou Reed esce fuori pure qualcuno che apprezza, noi sappiamo, il buon Gabriele. Allora, dicevamo, iniziò tutto 1967, forse anche prima, con una band visionaria d'avanguardia, si chiamavano Velvet Underground, ovviamente. Oggi li conoscono tutti e tutte. This was a greatness to behold. Ma penso, forse magari mi sbaglio, insomma, comunque fu la prima band di successo ad avere una batterista donna. Che già di per sé questo fatto era all'epoca appunto sconveniente, rivoluzionario, insomma, fuori dal normale. Stiamo parlando di Maureen Tucker, per molto tempo anche presila dello spazio, appunto, che andiamo conducendo, per dire come le cose si continuano a intrecciare in tutti questi anni. Venus in Farts, ovviamente, dal disco con la banana. The Velvet Underground e Nico Lou Reed alla voce. child in the dark. Comes in bells, your servant, don't forsake him. Strike, dear mistress, and cure his heart. Quindi quanta India troviamo in questa Venus in Farts? Eppure altrettanto quanto garage, quanto atmosfere fumose da pub. quante dissonanze, quante chitarre volontariamente e volutamente scordate, quante disarmonie. E poi in questo splendido, veramente splendido disco, essenziale poi per, come dicono ormai tutte le letterature, insomma, senza dover andare a cercare chissà quale scoperte, quale cosa nuova si dice. Diciamo, molti delle formazioni, delle band, dei gruppi fino al giorno d'oggi vanno a ripescare proprio in questi suoni prodotti alla fine degli anni 60 il loro sound attuale, per dire quanto potevano essere visionari sti ragazzetti all'epoca. Psichedelia, post rock, noise. E comunque sempre con uno stile cantautorale poi dietro, in cui le storie che si vanno a raccontare sono storie di sofferte. Di passione, di intimità, di vita, specialmente in questa grande mela. Ritorniamo a New York, quindi il disco nel 1989 che tanto ci piace, perché poi appunto abbiamo parlato di molto abbiamo ascoltato queste atmosfere molte volte un po' tenebrose, ombrose, notturne, scure. Invece in realtà il declamare, perché Lou Reed non è mai stato un vero cantante, ma ha proprio inventato uno stile che è quello della declamazione, quasi fosse una poesia così più o meno recitata cantando o cantata recitando. Ci andiamo ad ascoltare Straw Man, di tutto quello che non abbiamo bisogno, e che finisce con un suo scaracchio nell'Hudson, letteralmente affacciato sul fiume, sputa di fuori verso il vuoto. Questo è Lou Reed, questo è Straw Man 1989, 25 o'clock. Or the sins of swaggered hearts 6, 7, 8, 9. dead another politician, caught with his pants down and money sticking in his hole. Does anyone need another racist preacher spitting in the wind and only do your harm? Woo! Star man, gone straight to the devil. questo è il 2013, loro si chiamano Veronica Falls, al loro secondo disco. Ed è una band inglese di poco più di ventenni che non nascondono proprio la loro ispirazione nell'influenza dei Velvet Underground. E mentre noi passiamo al suono dei Wilco, quindi attraversando di nuovo l'Atlantico, avremo occasione, magari anche nella prossima, nelle prossime settimane, di riparlare dei Velvet e di Lou Reed. E magari vi leggeremo pure una, così, un rendiconto, una cronaca, ecco, che ci ha mandato una compagna della redazione riguardo il concerto di Lou Reed del 1975. A Roma non eravamo veramente troppo piccoli all'epoca, ci ricordiamo qualcosa dopo, Eric Clapton o altri. Il concerto di Neil Young all'inizio degli anni 80, almeno come così, o Patti Smith, ancora 1978, se non erro, Queer Banana potrebbe aiutarci, ma ci ha già chiamato. Lou Reed ci ricordiamo proprio vagamente, forse qualcosa al telegiornale dell'epoca, che finì ammazzata, insomma, e con la polizia che caricò pesantemente chi andava ai concerti, come si usava fare allora e come si è usato per fare tanto tempo dopo, scavalcando e non pagando il biglietto, come facemmo anche noi della nostra generazione poi negli anni 80. E magari avremo modo pure di leggere questa cronaca in una prossima puntata. Nel frattempo noi apriamo la mente, open mind, con Wilco. Myself beneath the banks, unbroken, beside the stream, ready to return your thoughts on them. So it goes, so it seems. Oh, I can only dream on the dreams we'd share if you weren't so defined. ancora Onda Rosso, ancora 87.9 della modulazione di frequenza, ancora 25 o'clock. Ci aggiriamo per il sud degli Stati Uniti ora. Calexico è il nome di un paese che si trova proprio al confine fra la California e il Messico. Detroit Steam, Calexico. Rimanendo intorno a questi suoni, lui suonava per gli Screaming Trees. Stiamo parlando di Mark Lanegan, che esce con questo sorprendente lavoro al confine qui sempre fra l'acustico e la psichedelia. Insieme a Dirk Gahrwand, Black Puddings si chiama questo lavoro del 2013. Questo è Mescalito da capo, dai, che è un bel blues psicotico. jazz. Found a coffin nails. We're losing, it's contagious. I'm tied down to the rail. Escalito. Turns. No, I'm gonna need you. Gonna need you when I burn. Mescalito. Took the sorrow from my heart. Us apart. Though the world keeps us apart. Questo è un volo di rapace. In alto sopra i canyon del deserto. E in fondo un fiume azzurro. E noi andiamo avanti così, eh. Thank you. niente da fare. Sul più bello, cosa sarà successo? Sei emozionato? Vabbè, mentre ci riproviamo vogliamo dire due chiacchiere poi sulla scorsa settimana. E niente, 25 O'Clock è andata in spedizione al concerto dei Dead Mido che si è tenuto qua a Roma giovedì scorso, con diverse aspettative, insomma. Era un concerto che eravamo curiosi di vedere, di andare a vedere. Dead Mido nella formazione della band originale, proprio quella che in questo 1999 di questo lavoro qua, che dovrebbe essere il loro primo lavoro se non vado errato, che ci aveva come titolo proprio Dead Mido. E poi l'abbiamo detto sicuramente qualche volta nelle scorse trasmissioni, abbiamo scoperto che è uscito con un'etichetta il primo disco dei Dead Mido di John Lally. E questo per dire che John Lally stava lì l'altra sera e abbiamo avuto modo di salutarlo di nuovo. E ci ha presentato pure due dei componenti dei Dead Mido. Beyond the Files we Now, che tradotto più o meno significa attraverso il campo, i campi noi conosciamo, traduzione un po' maccheronica. Versione questa rifatta dal vivo estremamente dilatata, penso che sia durata 12-13 minuti, ed uno dei momenti più importanti poi di tutta la loro esibizione, che ho confessato è iniziata un po' così, un po' forse sottotono. Sì, c'era un'atmosfera un po' ovattata all'inizio. Sì, poi hanno cominciato a sciogliersi. Sì. Eppure sono arrivati. Eppure il pubblico appresso, sì, e poi ci hanno fatto letteralmente volare. Eccolo, vedi, ora fa. Super, niente, non supera il punto. Vabbè, andiamo avanti. No, stavo dicendo che poi ascoltando i Dead Mido dal vivo si aveva proprio la sensazione del suono tattile. C'era questo suono nell'aria ben definito. E loro non ripartono nel frattempo, quindi noi ne approfittiamo innanzitutto per lasciarti Baracca e Burattini. Lo facciamo con questa cantautrice danese che tanto ha colto l'attenzione del fantasma, forse sarà anche per la sua aurea eterea di cui si circonda quando suona. Aventine è il titolo del disco che ha prodotto. exactly why. Lei si chiama Agnes Obel e questa è Tocca. Look alive, look alive. Underneath the grass would grow, aiming at the sky. Queste sono le note eteree di Agnes Obel. E noi ripartiamo dalla terra baltica dell'Estonia. E dal loro ultimo disco autoprodotto Scaled, uscito nel 2012. e noi ce le ascoltiamo con la prima traccia del loro ultimo lavoro, che è Spectral Express, Radio Onda Rossa. 23:55, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 MHz di frequenza della banda romana e laziale. E ci siamo ascoltati Talbot con 8 minuti di tensione. Visto che noi però la tensione vogliamo allentarla, andiamo a cercare di allentare le maglie del tempo. Rimaniamo sempre in Estonia e dedichiamo questo pezzo a tutti i Children of the Nightenairs. E loro sono gli Smoke. Thank you. e dall'Estonia loro sono gli Smoke. Se non avete capito nessuna parola è perché cantano in lingua estone, che mi ricordava comunque un altro personaggio, sembra il linguaggio fonetico di Paul Chain, fatto con estrema maestria, perché appunto se li ascoltavi senza ascoltare le parole avresti detto vabbè, questo è un gruppone del sud della California, insomma. E invece strano, vengono dalla terra dei ghiacci. E visto che siamo entrati in piena 25esima ora, l'ora dove il tempo il tempo non esiste, e dove non esiste anche qualche conduttore, noi facciamo un salto di 40 anni nel passato. Da Los Angeles, da membri di Iron Butterfly e di Purple. E loro sono i Captain Beyond. Now e questi erano i Captain Beyond, capaci di fondere il rock, jazz e primi elementi del heavy metal. Dalla Los Angeles del Captain Beyond. Rimaniamo sempre negli Stati Uniti. Ci andiamo a ricollegare alla scorsa trasmissione. Al pezzo di Donovan del 1966. Che è Three Kingfishers. Dal loro ultimo lavoro appena uscito, che è Last Patrol. Loro sono i Monster Magnet. E questi sono i Golden Void. E lo spazio, la localizzazione del gruppo ve la diciamo. Rimaniamo nella California, Bay Area. E fin qui ci potevamo stare, insomma, ci arriviamo. Sì, il caldo della California, sì, insomma. Sì, sì, senza. Poi però, i suoni caldi, particolarmente valvolari, ci stavamo perdendo così in discussioni riguardo le amplificazioni e i pilota delle chitarre, dei bassi. Vabbè, vi lanciamo la domanda a voi. Sì, facciamo uno di quei concorsi a cui non risponde mai nessuno, però noi lo facciamo ugualmente. Lo diciamo anche per invogliarvi a non rispondere. Comunque, e non si vince nulla. Non si vince nulla. Poi ci risponde sempre banana, i soliti, di cui faremo volentieri a meno. No, però qualche persona edotta che ascolta, sì, ogni tanto ci telefona e ci corregge. Degli esperti, sì, che ci correggono. E quindi indovinate voi di che anno, di che insomma, anno è la produzione di questo lavoro. Ripetiamo il gruppo. Loro sono i Golden Void. Però attenzione, se andate su internet non barate, insomma, non barate, dai. Ed è un po' di tempo che non ci ascoltiamo i Baby Woodrose. Ce le ascoltiamo dal loro Third Eye Surgery. Questa è la quinta traccia. We'll be right back. E questi sono i suoni dilatati dei Baby Woodrows, che con il tempo ci giocano. Sì, e mentre noi ci stavamo così trastullando sulla scaletta che si dipana piuttosto felicemente questa sera, questa notte, però appunto 29 minuti proprio dopo la mezzanotte, siamo arrivati, e tra l'altro qui è sbagliata, perché no, giovedì 31 ottobre, sì, giusto. Oggi praticamente diremo domani, ma è oggi, o diremo oggi ma è domani, vedete un po' voi. Comunque giovedì 31 ottobre, già da un po' di tempo questa iniziativa viene spinta dalla radio e da vari media indipendenti, ed è un po' l'appendice di la seconda appendice, diciamo, di quanto è successo il 19 ottobre, e cioè della grande manifestazione di Roma di 70-80.000 persone, insomma quello che volete voi. Giovedì 31 ottobre assediamo Palazzo Chigi durante la conferenza Stato-Regioni sulla casa. Vendichiamoci di austerity e precarietà, quindi di nuovo assedio, ci riprendiamo tutto. Ore 11, piazza di Montecitorio, ed è, diciamo, una locandina che riprende un po' le grafiche e lo stile delle ultime, appunto, manifesti, delle iniziative che ci sono state in questo ottobre di lotte. 31 o sollevazione, quindi domani tutti e tutte a Montecitorio alle 11, dai. Riceviamo una telefonata. Ci sei? Pronto? Sì. Comandi? Pronto? No, sì, ti sentiamo forte e chiaro. Ciao, buonasera. Buonasera. Giulio. Ciao, ragazzi, ciao. Ci sembra una voce conosciuta. No, sono sempre io, sono sempre Giulio. Ah, bene. Ah, no, ragazzi. Ti ricordi? Sì, pronto? Sì. Ci ricordiamo bene. Dicevo, ma i ragazzi di Radio Onda Roma là lì, cioè. Dai. Pronto? Non è proprio Radio Onda Anomala, però. Va bene. Siamo anomali. No, perché stavo a girare il paiolo qui, no? Cioè, sì. Ho detto, finito di ieri. Ma è una metafora a girare il paiolo? Non lo so. le lingue non le conosco. Il dialetto, non sappiamo. No ragazzi, io vi ho chiamato, dai, ero pure un po', no? Mi chiamate? Sì. Cioè, voglio dire, cioè, vi ho chiamato, voi ragazzi siete straordinari, straordinari. Però inizi sempre con i complimenti, ma dopo... Sì, no, ma lo sappiamo, cioè, ci aspettiamo, insomma. Ma, cioè... No, ma cazzo ragazzi, perché mi prendete? Cioè, perché mi prendete? Cioè... No, guarda. Non abbiamo pregiudizi. Ma no, neanche io ho sempre giudizi, ma figurati. Abbiamo tanto rispetto. Ma sì, il rispetto. Ma guarda, io. Che vi devo dire, ragazzi? Io dicevo, ma i ragazzi alla fine sono bravi ragazzi, cioè, no? No, non capiscono una ciunghia, ma sono dei bravi ragazzi. Perché alla fine, cioè, uno dice, allora ci sono ancora i compagni, no? Cioè, chiami Radio Onda Anomala qui e ci sono ancora i compagni. I compagni di merende, di merendine qui che fate voi, ma ci siete ancora? Sì, siamo assorti assolutamente. Nella tua poesia, nella tua saggezza. Nella verba, sì, nella lirica. Cosa? Io sento odore di zolfo qui. Sento odore di zolfo, cioè voi... Ci giochiamo un po' con... Siete satanisti, voi vi piacciono. Sì, no, un po' con lo zolfo ci giochiamo. Senti ragazzi, io ho chiamato per dirvi una cosa seria. Sì, sentiamo. Io ho lavorato 40 anni in Menarini Breda. Sì. 40 anni. Sì. In Menarini Breda? Assolutamente. Adesso una cosa da dirvi. Sì. Non è servito un cazzo. No. Non è servito a niente, ragazzi. Non è servito a niente. Avete letto i giornali questi giorni, no? Ha chiuso la Menarini Breda? No, non l'ha chiuso, no. Che è chiuso? Non ha chiuso niente. Ci stiamo preoccupando. Ragazzi, Andreotti è vivo. Voi non lo sapete, voi state lì a sentire la musica del demonio. Il demonio è capito, no? Il demonio letta insieme a loro, ecco che fa, capito? Cioè, questi sono matti, ragazzi. Questi la decadenza la rinviano, no? Loro credono che si rinvia la decadenza, capito? La prorogano. La prorogano, loro dicono, ma no, non è oggi, sarà domani, ma non ti preoccupare, vieni via, dicono, capito? Cioè, no, io non vengo giù dal Cotolengo, ragazzi. È dai tempi di Carlo Cudega che siamo in decadenza, capito? Siamo in decadenza. No, non credete, ragazzi. Siamo assolutamente convinti, diciamo, Giulio. Sì. Senti, ma più o meno, quindi, sta decadenza quando è cominciata temporalmente? Ma che ne so io. Quando l'hai vista nascere, Giulio? L'altro giorno sentivo parlare lì il sindaco, come si chiama? Il sindaco di Firenze. Come si chiama? Firenze, cioè, sì. Quello lì. Cioè, ragazzi, io ho detto, no, questi c'hanno l'asso nella manica. Cioè, il centrodestra c'ha l'asso nella manica. È una cosa bellissima. Abbiamo vinto, praticamente. Cioè, ecco che... No. Cioè, come... Io sono uno di sinistra, no? Sapete? Sì, per vincere sì, le elezioni devi far Berlusconi, capito? Sì. È bella, no? È bella roba. Bel meccanismo, insomma. Voi, per carità, poi siete bravi, no? Cioè, poi voi fate il vostro mestiere, ragazzi. Io, che a me non mi pagano, poi. Noi invece profumatamente, per fortuna. No, ci pagano bene. No, sì, adesso, io non mi lamento. In tutto il mondo c'è la crisi, fuorché qua. Qua no. Ma c'è la crisi da voi? No, la Radio Onda Rossa mai. Vive e vegeta. Beh, che con la disoccupazione che c'è, la gente paga di tasca sua per lavorare. Quindi, sì. No, più o meno, sì, esatto. Ma ragazzi, che vi devo dire? Roma. Sono qui a Roma, no? Sì, no, siamo una radio di Roma, una radio romana. Sì. Roma. Milano è da bere, Roma è da mangiare, no? Sì, da mangiare, sì. Se mangia bene, no? Se la sono mangiata, infatti, se mangia così bene che... Madonna, ragazzi. Senti, comunque... Ti sento questa sera poco aggressivo, tutto sommato. Sono tranquillo stasera. Sono tranquillo. Rassegnato, sì. Quasi. Ma non sono rassegnato, è che non me ne frega più un cazzo. Cioè, dice, l'avete sentito, ragazzi? Io sono fin sulla Metallica, no? Quello che vi piace a voi, no? Cosa? È uscito il film sulla Metallica. Ah, il film sulla sì, vabbè. Avete visto? Non ce ne curiamo, comunque. Così magari imparate come si lavora, no? Non so, vi spiegano, no, come si fa, insomma, tutto il lavoro. Vabbè, cercheremo di apprendere queste... Sì, queste nozioni, questi rudimenti. Vabbè, io non me lo vedo, ragazzi. Cioè, a me mi dà... 40 anni, no? me mi bastano due punte mesta per andare al cinema, quindi che ci vado a fare, capito? Poi insomma la Metallica te la sei già vista in 40 anni di Minerini Breda. Parlando di cose serie, guarda, io l'altro giorno sono stato contento, però non è solo rassegnazione, l'altro giorno sono stato contento perché volevo andare, cioè, ho visto la manifestazione, no? Dei ragazzi, della OTAB, delle menate, e volevo andare alla manifestazione della OTAB. Voi siete andati? Sì, abbastanza. Siete andati? Sì. No, io non sono andato perché ho preso un tram a bassa velocità, siamo a Roma, capito? Fatto tardi. Cioè, cose che succedono, sì. Succede. Io ho fatto il 68, ragazzi. Io ho fatto il 68, quindi belle sono io, voi fate insomma la Metallica e tutto. Quindi belle sono io, ho fatto il 68, ho fatto pure il 69, ma voi manco sapete che roba è il 69. Immaginiamo. Senza doppi sensi, ovviamente, quello che viene dopo il 68. Ma no, ma dai, io voi avete i capelli lunghi, l'anello al naso, ma ribelle qui sono io, ragazzi, cazzo, dai, davvero. Cioè, voi siete bravi, no? Cioè, voi siete tutto il Peppino della Metallica. Sì, sì. No? Cioè, un po' così, no? Senti, però il problema è che quando hai detto così, appunto, hai parlato dei capelloni, cioè il fantasma si è agitato e mi ha mandato i riccioli negli occhi, quindi adesso mi trovo pure un po' in imbarazzo, non riesco anche se no, ho dovuto bene. Assolutamente agitare la chioma, richiamato da Giulio e sì, l'ho colpito con un ricciolo. Sì. Io sto a due metri, però. Fate bene voi ragazzi che vi droghiate. Davvero. Ma che messaggio stiamo dando ai nostri giovani, ragazzi? Ma ai tempi tuoi non giravano le sostanze psicoattive? Ma sì, se giravano. Sai, un messaggio lo dico io ai giovani, ragazzi. Andate a laurear, magari all'estero, perché qui in Italia se siete raccomandati bene. Io all'estero ci ho vissuto, io sono stato 2 anni a Barletta, capito? Cioè, ci sono stato, capito? Barletta in Germania, no? Barletta, sì, no, ma scherzo, gente bellissima, posti bellissimi, mangia benissimo, no? Come tutta Italia. Vabbè, ragazzi, vi saluto. Bene, che c'è... allora dai, la prossima volta più grintoso ti vogliamo, Giulio. Ma non è la grinta, uno la perde la grinta. Sì, sai come mi chiamavano, figa, ma tu, cazzo, sembra che mi conosci da una vita. Mi chiamavano il grinta, a me, capito? A Giulio. Giulio il grinta. Simeone, io torno a Simeone perché... Torno a Simeone. Poi bisogna far testo croce con la Svetlana per vedere chi guida, perché vabbè, comunque io ci torno. C'è pure la Giovanardi Fini, dice. Comunque. Vabbè, grazie di aver chiamato, Giulio. Saluti a te e alla Svetlana. Ma sì, ma dai. Ciao ragazzi. Ciao Giulio. E stavamo dicendo proprio poco prima della telefonata che stava avendo una scaletta precisa, una trasmissione seria, impostata, comunque senza troppi fronzoli e senza troppe... Beh. Grazie Giulio. Grazie Giulio. e in pieno spirito fricchettone, i colorisi non potevano finire questo lungo brano tra uccellini e suoni della natura. E dopo i colorisi della Germania, Monaco, ci spostiamo in Italia. Nell'Agropontino. Loro sono i Misanthropus. Se vi trovate domani dalle parti di Latina, suoneranno insieme a The Black. Questa è Water, Misanthropus, 25 o'clock. E se siete interessati ai Misanthropus, sul sito di Radio Onda Rossa, andando a ricercare la pagina di 25 O'Clock, potrete trovare l'intervista che abbiamo fatto qua negli studi di Radio Onda Rossa. E ce la ricordiamo come una lunga e bella chiacchierata. taggato con correttezza il podcast del file, anche se mettete su Google, penso, Onda Rossa oppure 25 o'clock Misantropus, dovreste arrivare comunque alla registrazione. Dai, yeah. Noi da Latina ritorniamo in Germania con la psichedelia dei My Sleeping Karma, dal loro ultimo lavoro che è Soma. Ci ascoltiamo la settima traccia, che è Saumia. My Sleeping Karma. Ci siamo. My Sleeping Karma. Dalle lande teutoniche. Noi ci siamo, Radio Onda Rossa. Controlla 25 o'clock ancora per qualche minuto. Radio Onda Rossa che si muove insieme ai movimenti. Ci vediamo tutte e tutti in piazza. Domani 31 ottobre a Piazza Montecitorio. Con tante C e tante T, è detta la romana. Il recapito telefonico www.ondarossa.info, il sito della radio. Che roba, eh? un passaggio veramente ardito. Ma che volete, il passaggio di microfono alle volte avviene in modo così fluido, altre volte brusco, però trillano, eh? Sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Eh sì, sì. Perché entrano pure le vibrazioni. E ho pure un po' rosicato, diciamo, perché ho scoperto che il 2 luglio, credo, abbiano suonato a Roma. Ma tanto a Roma non c'eravamo il 2 luglio, quindi. Tutto. C'è roots, c'è ska, c'è dub, c'è ragamuffino, c'è soul. Ma loro non vengono dai Caraibi, dal Caribe, ma dalla lontana Australia, e sono dei signori Maori. Fat Freddy's Drop, Russia, New Zealand, top choice music, I said that's where we go. To the 12 tribes, the Bureau and the Roots Foundation. Speak reggae music and I'm still number one. Take a step forward, take a step back. For my destination, all your strategies, leave them at the door. We don't need no information. Living in the age of technology, but it's all the same to me now. Just keep it on the flame, keep the fire burning, keep the fire burning, strike while the time is right. The time is right. Con questo quindi ce ne andiamo. Vi salutiamo a tutti e a tutte. Il saluto più importante, comunque, come ogni mercoledì notte, giovedì mattina, che si rispetti, a tutte e tutti coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale. Il carcere, la latitanza, gli arresti domiciliari, la clandestinità. A tutti quelli e quelle che sono clandestini e clandestine. A tutti quelli e quelle rinchiusi nei CIE. In particolare fra tutti e tutte loro salutiamo Marina, Alberto e Francesco e Ines. Scrivetegli Marina Cugnaschi presso la seconda casa di reclusione di Milano Bollate, via Cristina Belgioioso 120 20 157 Milano. Alberto Fagiolino Funaro, casa circondariale Capanne, via Pievaiola 252 06132 a Perugia, Francesco Pugliesi. Presso la casa circondariale di Roma Re Bibbia, nuovo complesso via Raffaele Maglietti 70 00156 Roma, braccio G9, secondo piano. Bella a tutti e a tutte. Noi ce ne andiamo così sotto la luna comunista. Radical.